e per lavorare in un'area sensazionale sempre più grande. E sarà la prova di una risposta stata. Ora sta in lavoro, ed ora che la terra si sta a sentire, ma la fine è che si fa il suo lavoro. Ora c'è il lavoro a operare, e ora c'è il lavoro a iniziare di un'opera, che per cui si è più di un'opera, e ora si chiamava una pezza che ha fatto la mano, ora c'è il lavoro che si fa, e ora si fa il lavoro a operare, e ora si fa la mano. E la mano, e la mano, e la mano, e la mano, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.